giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchessi. Manlio Grillo, Marino Clavo, Achille Lollo. Nell'ambiente li chiamano quelli di Arancia Meccanica. Loro vivono nel quartiere di Primavalle, nella cintura periferica di Roma. Grillo, Clavo e Lollo sono militanti di base di Potere Operaio. Non sono dei dirigenti, non amano l'organizzazione e le regole del partito. Sono solo in cerca di visibilità. Da mesi pensano ad un'azione eclatante. A Roma gli scontri tra compagni e fascisti si fanno sempre più duri. La città è già divisa a macchie di leopardo, zone rosse e nere e periferie dove l'MSI, il Movimento Sociale Italiano, ottiene ampi consensi tra i ceti meno abbienti. Il quartiere di Primavalle è uno di quelli, perché Mario Mattei, il segretario della locale sezione dell'MSI, lavora senza sosta tra la popolazione e nei mercati parla di servizi sociali, di mense popolari, di un futuro migliore. Notte tra il 15 e il 16 ottobre 1973. Grillo, Clavo e Lollo si recano davanti alla porta d'ingresso dell'abitazione di Mario Mattei. Due stanze al terzo piano di un edificio popolare. Appoggiano una tannica con almeno 5 litri di benzina e poco accanto alla porta d'entrata danno fuoco. Un rogo di vaste proporzioni investe la casa. Mario Mattei si sveglia di soprassalto, tenta di salvare i suoi familiari, la moglie, i figli Stefano e Virgilio. Apre la porta d'ingresso, ma a quel punto le fiamme investono l'interno dell'abitazione. La situazione peggiora e i due ragazzi muoiono dopo una lunga agonia. Mario Mattei e la moglie riescono a salvarsi. Mentre fuggono e diventano ombre, Grillo, Clavo e Lollo lasciano sul pianerottolo un cartello di rivendicazione. Brigata Tanas, guerra di classe, morte ai fascisti. La sede dell'MSI, Mattei e Schiavoncino colpiti dalla giustizia proletaria. Brigata Tanas, ovvero una squadra di azione militare illegale come loro stessi la definiscono. Con quella sigla Grillo, Clavo e Lollo avevano colpito due volte la sede dell'MSI di Primavalle e l'autovettura di un esponente di destra. La notizia della strage suscita profonda emozione nell'opinione pubblica e dure critiche giungono da tutti i partiti e movimenti della sinistra storica ed extraparlamentare. La pratica dell'antifascismo militante è sotto accusa e agli investigatori sembra ormai chiaro che l'azione sia riferibile a Potere Operaio. Franco Piperno, leader nazionale del gruppo, avvia così un'indagine interna e incontra Lollo. Lui nega di aver partecipato all'attentato, ma sarà arrestato il 18 aprile del 73. Manlio Grillo e Marino Clavo sono già clandestini. Ma qualcuno non ci sta, vuole sapere, vuole conoscere che cosa è accaduto quella notte nel quartiere di Primavalle. E Valerio Morucci, lui rintraccia Marino Clavo in una cascina sulle colline intorno a Firenze. Lo interroga mostrandogli una Walter PPK. A quel punto Clavo crolla e confessa di aver organizzato con Grillo e Lollo l'agguato contro Mattei e i suoi figli. Ma all'esterno Potere Operaio muove invece una campagna di delegittimazione contro periti e consulenti del tribunale. Assolti in primo grado per insufficienza di prove, vengono poi condannati in via definitiva a 18 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale e incendio doloso. Oggi Achille Lollo vive in Brasile, Marino Clavo in Svezia, Manlio Grillo è cittadino del Nicaragua. Per loro il reato di concorso in omicidio è caduto in prescrizione. Possono cioè tornare in Italia. Ma Lollo, dopo alibi e smentite, parla di retroscena dietro all'attentato di Primavalle e dice: con noi tre ci sarebbero stati anche Paolo Gaeta, Diana Perrone ed Elisabetta Lecco. Sulla base di questa testimonianza, i magistrati romani riaprono l'inchiesta. L'avvocato Luciano Randazzo difende gli interessi della famiglia Mattei. È incidente probatorio al fine di far acquisire le dichiarazioni testimoniali del signor Achille Lollo, anche per mezzo di un eventuale rogatorio internazionale. Lollo, Clavo, Grillo. Chi li ha aiutati a fuggire? Chi sapeva la verità? Di certo i fatti di Prima Valle segnano la fine politica del movimento extraparlamentare, come spiega Palmira Mancuso Aldo Grandi, autore del libro La generazione degli anni perduti, storie di potere operaio. Diciamo che Prima Valle fu sicuramente un detonatore particolare all'interno di Potere Operaio. Teniamo conto che Prima Valle avviene nei primi mesi del 1973. Potere Operaio, nonostante quello che sostenne poi il giudice Calogero, si sciolse effettivamente a tutti gli effetti nel 1973, sempre nel convegno di Rosolina che si tenne pochi mesi dopo, cioè a fine maggio, inizio giugno. Diciamo che la vicenda di Prima Valle dimostrò a coloro i quali erano fortemente critici verso la linea di Piperno e Scalzone, cioè Negri e gli altri, diciamo così, più propensi ad abbracciare l'autonomia operaia, non solo, ma anche in un certo senso una sorta di alleanza, tra virgolette, strategica con le Brigate Rosse, fu la prova, diciamo, che le azioni tipo lavoro illegale o le azioni di lotta armata, come le consideravano la linea dei romani, chiamiamoli così, erano in realtà capaci di produrre soltanto gli effetti disastrosi che portarono poi a Prima Valle. Teniamo conto che Achille Lollo, prima di fare il rogo di Prima Valle, di fare quello che ha fatto insieme a Clavo e Grillo, poco tempo prima tentò di fare pose in atto un attentato a una fabbrica di Sulmona, che invece di fare danni al padrone della fabbrica, peraltro ancora aperta un'inchiesta, credo l'avvocato Randazzo volesse approfittare anche di questo aspetto contenuto nel libro per procedere nei confronti degli autori per strage, che è un reato che è imprescrittibile, e quindi praticamente rischiò addirittura di ammazzare gli operai. Quindi voglio dire, effettivamente questa sorta di organizzazione, ovviamente molto molto molto misera, che aveva potere operaio dal punto di vista armato, in realtà non è che produsse poi tanto, e questo favorì ovviamente in un certo senso la posizione e le critiche di chi, come Negri e come gli altri, poi Rosolina sparò a zero contro questo atteggiamento e, ritenendo ormai finita l'epoca, l'epopea, diciamo così, dei gruppi, preferì poi lasciar perdere e praticamente passare a quella che sarebbe stata poi la stagione dell'autonomia. Partendo da alcune testimonianze contenute nel libro di Grandi, il legale della famiglia Mattei, l'avvocato Luciano Randazzo, nel 2004 chiede l'apertura di un'inchiesta sull'aiuto all'estradizione e sui vertici di potere operaio che avviarono allora un'inchiesta interna, raccogliendo solo la testimonianza di Marino Clavo, che, interrogato da Valerio Morucci, avrebbe ammesso la sua colpevolezza. Di questo incontro parla anche Jaro Novak. Ci spiega ancora chi era Aldo Grandi. Ma Jaro Novak è un personaggio che per certi versi potremmo anche definire un po' mitico. È, insieme a Valerio Morucci, era, diciamo così, un po' il responsabile nei primi anni 70 di quello che era l'aspetto organizzativo e dei servizi d'ordine di potere operaio a Roma. Jaro Novak, la testimonianza che ha fatto nel mio libro, in realtà l'aveva già resa in sede di processo. Tanto è vero che appunto il giudice lo interruppe perché praticamente era un aspetto nuovo che emergeva, ma lui lo raccontò tranquillamente. Jaro Novak è una persona che non ha voluto più parlare di queste cose e lo ha fatto per la prima volta con il sottoscritto a distanza di così tanti anni, e posso anticipare che quest'anno, nell'ottobre 2005, uscirà un altro libro che conterrà le testimonianze di tutti coloro i quali hanno partecipato a quell'esperienza e sono poi finiti nel cosiddetto processo 7 aprile. Qui ci saranno delle rivelazioni notevoli e delle grosse novità su molti altri episodi e non soltanto su quello di Prima Valle. Oggi Paolo Gaeta, rampollo di una famiglia di avvocati, fa l'imprenditore. Diana Perrone, figlia dell'allora editore del Messaggero, vive tra l'Italia e l'India e si occupa di arti orientali. Elisabetta Lecco organizza mostre, ma di lei gli amici di allora hanno perso ogni traccia. Secondo voi, dopo aver ascoltato questo racconto, è possibile che i vertici di potere operaio non sapessero nulla della strage di Prima Valle?